Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 3 Pietro con Giovanni risana un zoppo dall'utero della madre, e dichiara, che ciò essi han fatto in virtù della fede nel nome di Cristo. Dimostra, che questi è il Messia promesso da Mosè, e da profeti, e fino ad Abramo. Pietro e Giovanni salivano al Tempio sulla nona, ora di orazione. E veniva portato un certo uomo stroppiato dalla nascita, il quale posavano ogni giorno alla porta del Tempio chiamata la Speciosa, perché chiedesse limosina a che entravan nel Tempio. Questi avendo veduto Pietro e Giovanni, che stavan per entrare nel Tempio, si raccomandava ad essi per aver limosina. E Pietro fissamente miratolo con Giovanni, disse, «Volgiti a noi». E quelli guardavagli attentamente, sperando di ricevere da essi qualche cosa. Ma Pietro disse, «Io non ho né argento, né oro, ma quello, che ho, te lo do, nel nome di Gesù Cristo Nazareno alzati, e cammina». E presolo per la man destra, lo alzò, e in un attimo se gli consolidarono gli stinchi, e le piante dei piedi. E si rizzò d'un salto, e camminava, ed entrò con essi nel tempio, camminando, e saltando, e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide, che camminava, e lodava Dio. E lo conoscevano, che era quello, che si stava sedendo, e chiedendo la limosina alla porta speciosa del tempio, e furono ripieni di stupore, ed erano fuori di sé per quello, che era in lui avvenuto. E mentre egli teneva stretti Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupefatto corse verso di loro nel portico detto di Salomone. Lo che avendo veduto Pietro, rispose al popolo, «Uomini israeliti, perché vi maravigliate voi di questo, o perché tenete gli occhi sopra di noi, quasi che per virtù, o per potestà nostra abbiamo fatto sì, che costui cammini? Il Dio di Abramo, e di Isacco, e di Giacobbe, il Dio dei padri nostri ha glorificato il suo figliuolo Gesù, il quale voi avete tradito, e rinnegato davanti a Pilato, quando questi avea giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, e il giusto, e chiedeste, che fossevi dato per grazia un omicida, ma l'autore della vita voi lo uccideste, cui Dio risuscitò da morte, di che siamo noi testimoni. E mediante la fede nel di lui nome quest'uomo, che voi vedete, e conoscete, lo ha fortificato il di lui nome, e la fede, che vien da lui, ha dato a costui questa perfetta salute a vista di tutti voi. Or io so, fratelli, che lo avete fatto per ignoranza, come anche i vostri capi. Ma Dio così ha adempito quello, che per bocca di tutti i profeti avea predetto, dover patire il suo Cristo. Fate adunque penitenza, e convertitevi, perché siano cancellati i vostri peccati. Onde venga il tempo della consolazione dalla faccia del Signore, ed egli mandi quel Gesù Cristo, il quale fu a voi predicato, il quale conviene, che ricevuto sia nel cielo sino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, del che a Dio parlato pia tempo per bocca dei suoi santi profeti, impero che Mosè disse, il Signore Dio vostro farà a voi sorgere uno tra i vostri fratelli, profeta come me, a lui presterete fede in tutto quel che vi dirà. Chiunque poi non ascolterà questo profeta, sarà scancellato dal popolo. E tutti i profeti, che hanno parlato da Samuele in poi, hanno predetti questi giorni. Voi siete i figliuoli dei profeti, e del testamento stabilito da Dio con padri nostri, allorché disse ad Abramo, e nel tuo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Per voi primariamente Dio risuscitato avendo il suo figliuolo, lo ha mandato a benedirvi, affinché si converta ciascheduno dalle sue iniquità. Note, 3,1, sulla nona, ora di orazione. Le ore principalmente destinate all'orazione erano la prima, la terza, e la nona ora del dì. Questa era la vespertina, che principiava la sera col declinar del sole. 3,2. Alla porta del tempio chiamata la Speciosa, Ici. Era una delle porte dell'atrio detto dei Giudei, così chiamata per la sua bellezza. E si rizzò d'un salto. Dal letto, sul quale stava giacendo. 3,11. E mentre egli teneva stretti Ici. Per effetto certamente di amore, e di gratitudine, bramando di far conoscere a tutta la gente i suoi liberatori. nel portico detto di Salomone Eci. Secondo molti interpreti questo portico apparteneva all'atrio detto del Giudei, 3,15. Ma l'autore della vita voi lucideste. Salvaste la vita ad uno, che l'aveva ad altri tolta, e faceste morire colui, che è autore e principio della vita tanto temporale, che eterna. Pone dinanzi agli occhi dei giudei l'atrocità del gran delitto, ma lo fa con termini e con parole si misurate da muoverli non a ira e sdegno, ma a vergogna e pentimento. 3,16. E mediante la fede nel di lui nome ci dimostra l'Apostolo, come a Gesù Cristo solo dovea riferirsi la gloria del miracolo operato dal solo nome di lui invocato con fede, con quella fede, che viene dallo stesso Salvatore, il quale l'ha meritata, e accesa nel cuore degli uomini. 3,18. Ma Dio così ha adempito quello, e ci Dio con la infinita sua sapienza traendo dal male il bene, ha fatto sì, che la vostra ignoranza, e il vostro peccato servissero all'esecuzione degli altissimi suoi disegni, conducendo a fine la redenzione dell'uman genere per mezzo dei patimenti, e della morte sofferta da Gesù conforme a quello, che da profeti era stato predetto. 3,20. Onde venga il tempo della consolazione dalla faccia del Signore, eci. Il Grisostomo, e dietro lui molti interpreti intendono queste parole del tempo del finale giudizio, quando Dio darà ai suoi servi la felicità, e il riposo eterno in ricompensa dei loro patimenti. Altri le intendono del tempo della rovina di Gerusalemme, con la quale ebbe fine la persecuzione dei giudei contro la Chiesa, e i fedeli ebbero per questa parte pace e riposo. Impero che quanto alle persecuzioni dei gentili esse, Pietro non ne parla, forse per non atterrire avanti tempo le anime ancor deboli. E aggiungendo, e mandi quel Gesù Cristo, imita la maniera di parlare dello stesso Salvatore, il quale rappresentava sovente la futura desolazione di Gerusalemme, come l'ultima sua venuta, perché la vendetta terribile, che egli voleva esercitare sopra quella scellerata città, era una figura delle più terribili vendette, che egli eserciterà contro i reprobi nel giorno estremo. Vedi Met. 24, 30. 16, 27. 28, 3,21, il quale conviene, che ricevuto sia nel cielo sino eci. Dei rimanere nel cielo, dove è stato assunto, e dove siede alla destra del Padre, fino all'ultimo giorno, allora quando vestito di maestà, e di gloria scenderà di bel nuovo a dare un nuovo ordine a tutte le cose, chiamando i giusti allo stato di perfetta beatitudine, e di mortalità, rigorosa giustizia facendo degli empi, e mandandoli nel luogo dovuto ai loro misfatti. 3,22. Profeta come me, eci. Si paragona qui missione con missione, non già la dignità, e il merito personale dell'uno e dell'altro profeta. Mosè era stato mandato da Dio, e da Dio fu mandato Gesù Cristo, ma come il fine della missione di Cristo era infinitamente più sublime, che quello per cui era stato spedito Mosè, così infinitamente superiore era la dignità del secondo a quella del primo, il quale nulla ebbe di più grande, che l'essere una viva figura di Gesù Cristo. Vedi la lettera agli Ebrei. 3,23. Sarà scancellato dal popolo. Ovvero sarà sterminato dal popolo di Israele, punito non tanto di morte violenta in questo secolo, ma anche di eterna morte nel futuro. 3,24. Da Samuele in poi. E ci pone Samuele come il primo tra profeti dopo Mosè, perché avanti di lui era raro il dono di profezia, come abbiamo dal primo dei re, capitolo secondo, i. Hanno predetti questi giorni e ci. Hanno profetizzato la venuta, i miracoli, e il regno di Cristo, e anche il tempo, in cui questo regno dovea venire, come tra gli altri Daniele. 3,25. Voi siete i figliuoli dei profeti. E del testamento e ci figliuoli dei profeti secondo la religione, mi vale a dire discepoli degli stessi profeti, ed eredi dell'alleanza stabilita da Dio con Abramo, e coc discendenti di Abramo. Per lo stesso motivo l'Apostolo chiama gli Ebrei figliuoli della promessa, Rom 9. 8, Gal 4, 28. 3,26. Per voi primariamente Dio risuscitato avendo il suo figliuolo. La benedizione promessa ad Abramo ha da estendersi a tutte le genti, ma tra tutte voi siete i prediletti, e per voi primariamente è stato mandato il Cristo, e per voi principalmente questi ha mandato lo Spirito Santo. Ma si osservi di grazia, con qual forza di eloquenza si insinui l'Apostolo a convincere, e muovere i cuori dei suoi uditori in questa perorazione. Gli ebrei avevano un'altissima venerazione per Mosè, si gloriavano al sommo di essere figliuoli dei profeti, eredi dell'alleanza fatta da Dio con Abramo, e della benedizione promessa mediante quel gran profeta, che della stirpe di lui doveva nascere. L'Apostolo pone egli stesso in bella veduta questi gran privilegi accordati da Dio a Israele, ma fa loro intendere a un tempo che l'unica via di conservarli sia di credere in Gesù Cristo, predetto già da Mosè, annunziato chiaramente da tutti quanti i profeti, mandato dal Padre alle sole pecorelle disperse della casa di Israele, la riunione delle quali cercò questo caritatevol pastore in tutto il tempo della sua predicazione, messo finalmente a morte per esse ma esaltato dal Padre nella sua risurrezione, e costituito unico autore, e principio di salute, di benedizione, e di grazia, come apertamente si dimostrava dai prodigiosi effetti prodotti nei credenti dallo Spirito Santo da lui mandato, il quale rendeva in tal maniera testimonianza dell'essere di Gesù Cristo, come egli aveva già predetto, ille peribebita affinché si converta eci. Impero che la grazia del Salvatore apparve per illuminarci, affinché l'impietà rinnegande, e i desideri del secolo, temperantemente, e giustamente, e piamente viviamo in questo mondo.